Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? È l'importanza di giovani redattori e giovani redattrici per il Breakfast Club e non solo, per tutta la nostra emittente e linfa vitale di fondamentale importanza. Quindi cominciamo con la rassegna stampa culturale parlando del tempo, misurazione del tempo. Sono le 8:05 minuti, ma questo mi pare di averlo già detto, del 27 maggio ovviamente 2024. Perché questa precisione? Perché è una precisione che ci porta in una città che, come ben sapete, nel cuor mi sta. È la città di Chioggia e beh, è stata una bellissima sorpresa per me ritrovarla in Storia e Storie a pagina 7 della Domenica del Sole 24 Ore. Anche perché dovete sapere che Chioggia ha l'orologio meccanico più antico del mondo. Lancette nel Medioevo. È il 1386, tra l'altro è visitabile, anzi ne consiglio, come dico di solito, obbligo la visita a questa straordinaria struttura che veramente vi farà restare incantati davanti a questi meccanismi apparentemente arcaici ma quanto mai precisi al secondo, quando nella piazza di Chioggia fu installato l'imponente dispositivo. E non solo un imponente dispositivo, ha diverse sfaccettature e ne parleremo anche come importanza per la città, oltre che avere la misurazione in maniera pubblica del tempo, cosa non da poco, averne anche un requisito fondamentale che identificava la città di Chioggia, che conosciamo tuttora come enclave veneziana per quanto riguarda la lavorazione del pescato, le acque, la raccolta negli orti di cozze e vongole, tante caratteristiche, punto di snodo commerciale con un porto molto ampio e soprattutto in posizione geografica fondamentale, è veramente una porta del Mediterraneo, chi l'avrebbe mai detto. È anche una città non solo dalla tradizione storica ricchissima, ma una città di orologiai. Sì, perché non vi era solamente la costruzione di questo orologio, e siamo nel 1386, ma vi erano diversi artigiani che si applicavano nella costruzione di questi difficilissimi meccanismi, anche se adesso ormai, vogliamo dire, abbiamo la possibilità e ci sembra tutto così scontato. Allora non era affatto scontato, anzi tutt'altro. Rappresentava un ordine e stabilità in un momento per Chioggia difficilissimo. Il governo lo volle pur in un momento di gravissima crisi economica. Perché? Perché intanto 1386, appena terminata la guerra tra Genova e Venezia, Chioggia è stata veramente un palcoscenico di carneficina per quanto riguarda i combattimenti riportati in zona, tanto più che un cognome molto presente tuttora a Chioggia è Doria, tipico cognome genovese. Il dialetto ha una cadenza molto particolare che ricorda l'architettura, fra l'altro è chiaramente riconoscibile con un'antichità genovese. Beh, insomma, i genovesi fecero di tutto per tenere Chioggia, non riuscirono ovviamente, ma costò caro prezzo di vite umane, e questo poi con miseria e carestia. Pensate che erano arrivati a una miseria tale che si moriva di fame, e con tutto questo poi ovviamente le condizioni di vita, con un peggioramento totale, scoppiò la peste nera. La peste nera ha portato dopo la guerra a un'ulteriore distruzione. I fondi erano veramente pochi. Beh, i cittadini si autotassarono per quel poco che avevano, pur di essere i primi, pur di avere questo scandir del tempo come segno di ripresa, come segno di rinascita. E infatti anche l'articolo che troviamo, molto bello, di David Rooney, ma analizzando più da vicino la loro storia scopriamo che gli orologi monumentali installati sulle torri, sulle facciate degli edifici, come ad esempio quello di Chioggia, che tra l'altro è il più antico, sono stati messi lì per ricordarci l'ordine. L'ordine e la stabilità in un mondo caotico e molto violento. Questa reiterazione ritmica proprio per ricordare il tempo, soft music under the stars, questa dolce musica sotto le stelle, che a sua volta dà colonna sonora a questo articolo che troviamo a pagina 7 sulla prestigiosa Domenica del Sole 24 Ore. L'impersonificazione del tempo come qualcosa che potesse dare allo stesso modo sicurezza e un motivo di ripartenza, oltre che grande orgoglio, perché non da molto si era scoperto poi il motivo di misurazione del tempo. Prima di allora nelle piazze vi erano le meridiane, improvvisamente ritrovarsi un grande orologio meccanico con... Allora c'è la possibilità di visitarlo, tra l'altro sarete accolti da custodi chioggiotti molto disponibili. Abbandonate ogni idea del chioggiotto un po' scontroso. Beh, lo sono, ma se non fate arrabbiare sono assolutamente ospitali. E per quanto riguarda questa visita, una volta arrivati in vetta, poco prima potrete ammirare il meccanismo originale di contrappesi e funi che danno un movimento continuo a questo orologio. Beh, una volta in cima, chiaramente, un paesaggio lagunare unico e speciale. Non tutti lo conoscono, non tutti hanno... Diciamo che per me dovrebbe essere considerato una delle meraviglie del mondo, è l'unicità, è un primato molto particolare per tutte e per tutti. Comunque, dal tempo allo spazio, Odissea negli spazi, parliamo del Point Nemo. è il punto del pianeta più lontano da qualsiasi cosa. È chiamato Point Nemo, appunto per la crasi dal latino. Nessun uomo può arrivare in quel punto. E troviamo tra l'altro in questa stilizzata cartina, veramente nell'Oceano Pacifico, ad almeno 1688 chilometri dalle terre più vicine, 1688 chilometri. Si chiama così perché in latino significa, è l'insieme delle parole, nessun uomo, ma anche in onore del capitano Nemo, no? Per il libro di Verne, questo grandissimo esploratore. Quanti motivi, se vogliamo, di un'immagine romantica possiamo avere, no? Di queste terre, di questo aspetto letterario. Beh, non è, se vogliamo anche, però sentite un po' per cosa è stato utilizzato nei dintorni questo punto di nessuno. È stato utilizzato come cimitero per velivoli spaziali. Chiaramente non è che puoi riutilizzarli o utilizzarli, perché fanno dei viaggi incredibili, allucinanti, come recitava un noto film dell'epoca. Beh, quando poi precipitano, organizzano la caduta in quella zona, e beh, negli abissi si ritrova veramente un cimitero di carcasse per quanto riguarda questi sonda, satelliti, anche astronavi che vengono fatti precipitare proprio in quella zona. Un cimitero aerospaziale a Point Nemo. Cambiato il brano, che incedere che da bravi fila Brasilia. L'idea di mappa raccontando la nascita dell'isola del tesoro, Stevenson scriveva: mi dicono che al mondo ci sono persone non attratte dalle mappe, mi riesce difficile crederlo. Un po' tutti su. La mappa era la parte principale della mia trama. Il libro, caposaldo della letteratura inglese, L'isola del tesoro, non era nato da una storia, dalla scaletta dei capitoli o dalla scelta dei personaggi, no, ma dal disegno di una cartografia. Ci sono diversi Point Nemo, se ci pensiamo, infatti qua vengono ripresi, ma in maniera più scientifica e per quanto riguarda una geografia così estesa, si chiamano poli dell'inaccessibilità. Polo nord dell'inaccessibilità, polo sud dell'inaccessibilità, polo continentale dell'inaccessibilità. Ve ne sono diversi, appunto, ed è curioso andarli a scoprire trovandone poi nel paragrafo graphic a pagina 11 e pagina 12 di Tutto Libri, l'inserto della stampa. Nella meta verso le inaccessibilità ce n'è un'altra meritevole di attenzione, l'isola inaccessibile che è l'isolotto più remoto dell'arcipelago più remoto del mondo. Le sue scogliere sono così impervie che era difficile sbarcarci e ancor più complicato viverli. Adesso troveremo anche modo, anche perché in questo punto così inaccessibile c'è stata una famiglia genovese, torniamo a Genova in questo caso, che al momento poi di riportare in punti più, chiamiamoli così, accessibili, è stato chiesto a loro, insomma, c'è la possibilità di rientrare, perché è veramente difficile passare di qua, tra l'oceano, la difficoltà dell'attracco in queste scogliere, quindi stiamo arrivando, e loro dicono no, noi stiamo benissimo qui, restiamo in questo punto. Mi piacerebbe fare il quiz, magari donarvi un libro molto bello di cui parlerò. Beh, è il cognome di questa famiglia, perché a proposito di viaggio, per me, beh, non solo chi viaggia, ma il nome di questo panino da autogrill corrisponde al cognome di questa famiglia che ha detto no, no, noi restiamo in questo punto, sperduto nell'Oceano Pacifico, non vogliamo saperne di rientrare. Chissà, aspetto la risposta al 333-180-9494. È diventato il nome di un noto panino da autogrill, ecco, così per una sosta veloce. Se avete molta fame, perché non è che insomma sia il massimo, però non lo voglio screditare, poi è anche gusto personale. Però un nome che ricorda questa famiglia genovese. 333-180-9494. Poi vi parlerò di un libro che lo vorrei portare anche al Voltiamo Pagina, bellissimo. A tra poco, un classico della letteratura greca che si rifà alla classicità, tra l'altro. Tristan da Cunha è un protettorato, guarda un po', inglese, chi l'avrebbe mai detto? L'ultimo censimento rivela che vi sono tuttora 234 abitanti. Non vi sto a dire le comunicazioni ogni quanto ci sono, via discorrendo, perché avrete già capito. Tra questi vi è un cognome. Il cognome è stato riportato in maniera puntuale a proposito di tempi e precisa. Dammi conferma perché non ti sei firmato, però Mr. Marco, I suppose. La risposta esatta, la risposta è Camogli. Sì, troverete una famiglia che ha il cognome Camogli. Sono genovesi che si ritrovano, non so per quale ragione o per un naufragio, e poi faranno razza, come si dice in maniera molto immediata, sul posto, e al momento del rientro diranno: no, no, no, noi stiamo benissimo qui a Tristan da Cunha, anche se siamo nel punto più sperduto e irraggiungibile. Il cognome rimane, e poi vabbè, un po' di folklore dal nome, anche oltre che alla località, dal nome anche al panino. Se avete molta fame, questo però gusto personale, non voglio aggiungere, mi ha sempre incuriosito il camogli, poi una volta provato ho detto: ok, ci vuole molta fame. Sono molto contento di condividere questa lettura con te. Io l'ho appena iniziato, caro Marco, te lo dono, perché lettrici, lettori, ascoltatrici, ascoltatori del Breakfast Club, è giusto condividerne la lettura. È una riscoperta, è il paragrafo di tutto libri che per primo vado subito a ricercare quando esce al sabato La Stampa, ed è Cosmas Politis. Così viene presentato: nostalgia dell'Iliade nel Novecento dei giovani greci. Pubblicato 90 anni fa, il capolavoro di Politis è stato ora tradotto per i lettori italiani. L'amore rompe ogni equilibrio, la morte cambia qualsiasi prospettiva per sempre. Cosmas Politis, epica, anzi eroica, direi, Crocetti Editore, è il libro di quest'oggi come riscoperta per il Breakfast Club nei magazine. Epica l'ho aggiunto io, il titolo è eroica, però insomma... È ritenuto un classicone per la letteratura greca del Novecento, quindi quello che non conosco, magari tu lo conosci, Marco, avremo modo magari di scambiarci opinioni su questa lettura condivisa che ha portato i magazine del Breakfast Club. Sono le 8:27 minuti, il momento del primo stacco pubblicitario, però prima abbiamo parlato di tempo, quindi a proposito di un orologio che sta dentro di noi, il cuore, e non è solamente meccanica, è altro. Heartbeat, Sakamoto, con una grandissima voce, David Sylvian, ci accompagna alla pubblicità. E poi rientriamo a breve. Bravo Marco, a tra poco. I see the lines, the palm of its hand now. A lesson. But no words spring to mind. And it sounds so sweet. Listen to its heartbeat. And I'm drowning in its sea, falling at its feet. Listen to my heartbeat, baby. Blood sail leaves tonight, fated in its blindness. And it won't be long before help is at hand. And the darkness sleeps, cushioning the heartbeat. And I killed the captain, sang the fleet to liberate the heartbeat, baby. And it sounds so sweet, it sounds so sweet. Listen to our heart. cushioning the heartbeat. And I'm drowning in its sea, falling in its feet. Listen to my heartbeat, baby. Speaks to ghost, soars alike, springs to life, doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, bathed in snow, nailed to the soaps, and it won't let go. Fed on the Bible, grows in trees. It opened the mind, and the heart was free. A home in the silence, safe from sound. Where trouble sleeps, and the light is found. Speaks to ghosts and souls in life, springs to life, and it doesn't think twice. Wrapped in the blood cell, bathed in snow, nailed to the source, and it won't let go. Fed on the Bible, grown from trees, open the mind and the heart was free. A home in the silence, safe from sound. The trouble sleeps and the light is found. Listen to my heart. Per EM and I, questa ritmica funky che accompagna il rientro in diretta and anzi jazz, e iniziamo a trovare anche nei magazine di questo weekend veramente quello che è stato il magazine. Ogni volta c'è un magazine dal quale si estraggono più articoli, e fortunatamente la rotazione è continua, non è che tutte le settimane ce ne sia sempre quello, no, è una rotazione che questa settimana vede molto presente all'interno della nostra rassegna stampa culturale Tutto Libri della Stampa. Esce il sabato. Non credo che sia tra quelli presenti nella pubblicazione, nell'uscita per tutti i giorni della settimana, ed è un peccato. Forse, se avete l'edicolante di fiducia o la certezza per la lettura e Robinson, per Tutto Libri non so, però magari per un edicolante di fiducia, beh, farne richiesta non solo per questa settimana, in particolare per questa settimana, diciamo così. A pagina 2 troviamo questo approfondimento, il fabbricante di libri. Tra l'altro nelle mie gite, escursioni domenicali, sono rimasto a Bologna e quindi sono tornato in libreria Ambasciatori, in questo caso, per fare un giretto, e ho trovato le diverse copertine disegnate da Riccardo Falcinelli, il fabbricante di libri. La scatola dei cornflakes è stata buttata, la cover di Munari, dice lui stesso, che abbiamo già conosciuto alla Magnani Rocca, quella no. I libri belli nascono da un dialogo appassionato tra autori, editori e grafici. Tra le mode della società moderna c'è quella di mostrarsi al passo coi tempi, e in tanti si vantano di sapere dove sta andando il mondo. Io al contrario, dice Falcinelli, conduco da sempre una vita desueta, persino il mio mestiere è desueto. Disegno la forma e le copertine dei libri di carta. Beh, però, insomma... La vita delle forme si ispira alla Bibbia poliglotta di Anvers e al Talmud. Insomma, è importante trovare in questo abito. Vedete che molte volte l'abito può fare il monaco, no? In questo caso l'esempio è una scatola dei cornflakes che è stata buttata, ma la cover di Munari no. Ed è uno degli esempi che viene riportato nei disegni, nella grafica, che è fondamentale. Ora, questo aspetto ha diverse strutture, ovviamente con la digitalizzazione c'è un'altra idea di quella che potrebbe essere la copertina, si chiama la grafica di determinati contenuti, no? Mentre invece per quanto riguarda l'aspetto concreto dei... presentare un libro, di presentare anche un prodotto, è stato a sua volta e continua ad essere tuttora un aspetto fondamentale. Ora, quando in quei lontani anni 90 esprimevo queste prime rudimentali idee, molti colleghi mi guardavano con un misto di perplessità e anche compatimento. Ma come? È arrivato internet, una miniera d'oro per la grafica, e tu vuoi dedicarti a un oggetto destinato a morire? E così venivo trattato come un fabbricante di candele all'avvento dell'elettricità. Questo per dire che il libro di carta era un oggetto superato già 25 anni fa. A dispetto delle Cassandre, il libro non solo è sopravvissuto, ma in un'epoca in cui tutto è digitale e immateriale, si è ritagliato un suo spazio dove continua ad innovare e a innovarsi. Sottolineo ogni parola. Altro che farne una donchisciottesca lotta, anzi molto in concreto qui Riccardo Falcinelli, mi fa coraggio anche per quanto riguarda ogni tanto, ovviamente, come dico, è la lotta contro i mulini a vento, mentre invece no, assolutamente, quando sento, poi adesso stiamo ascoltando un disco in vinile ad esempio degli EM&I, e beh, i vinili che stanno riprendendo, è vero, io sono sempre la voce fuori dal coro, stanno riprendendo, ma se prima hanno raddoppiato le vendite, ok? Faccio un esempio molto molto semplice: se prima vendevi uno, adesso vendi due, sì, hai raddoppiato, ma non è che hai svoltato, ecco. Un po' triste questa analisi, lo ammetto, denota il mio pessimismo per quanto riguarda, non dico questa lotta, ma questo confronto. Resta comunque sempre e comunque, ne rimango, come ben sapete, molto radicato nei miei principi. Ecco, il libro, il formato libro, seppur ci sia la lettura su questi booklet, adesso non ne conosco neanche il termine più preciso per coloro che leggono attraverso uno schermo i contenuti di un libro, questo supporto, io non ho mai letto un libro attraverso quel mezzo e non condanno assolutamente, però permettetemi un po' di bolognese, le totunet arquel. Allo stesso modo parleremo anche di giochi, sì, tra poco parleremo di giochi, lo faremo con un articolo molto particolare dalla Domenica del Sole 24 Ore, anch'esso faro illuminante nei nostri magazine. A tra poco! certo Marco, anzi se porti i ragazzi e io sono in diretta avremo modo di fare un'intervista e un format, piccola rubrica assieme a loro. Buongiorno a te Marco, se mi tieni il libro in radio vengo a prenderlo quando le scuole chiudono, così porto i cinni e io aspetto i cinni, assolutamente. Ah ok, perfetto, è che probabilmente non avevi messo il nome e quindi la mia confusione è stata ulteriore, però non è un brutto nome, dai, mi raccomando firmateli i messaggi, sbaglio anche quando mettete il nome, figuratevi quando non lo mettete, grazie. Sei Terenzio, però sai, quando non mettete il nome, come si procede? Andando nella cronologia, ma a volte nella cronologia appaiono altri nomi. Il primo nome che viene riportato, ah ok! Tempo ludico, cultura e civiltà, si parlava di giochi, ok, a parte che c'è un articolo di spalla sempre nel paragrafo tempo ludico, nella sconfitta si coglie il senso dello sport, articolo bellissimo di Paolo Legrenzi che ci dà l'idea di come fosse inteso in maniera completamente diversa per altre culture e altri popoli l'idea del gioco. Sentite un po', l'antropologo Philippe Descola, professore al Collège de France, ha studiato per anni la popolazione Aquar dell'Amazzonia ecuadoriana. Ha così seguito il passaggio tra vecchi giochi praticati da sempre. In particolare, loro amano la pallavolo. E l'affermarsi di uno sport nazionale come il calcio professionistico che si svolge in campionati competitivi, beh, ovvio, in livello nazionale. Invece la pallavolo come la intendono, no? Gli Aquar, spero di averlo pronunciato bene, si gioca in tre. Basta tendere un'agliana tra due alberi e munirsi di un pallone. Descola racconta di aver portato negli anni così come regalo una grande quantità di palloni perché potessero aver modo di praticare questa tipica pallavolo con le regole identiche, se vogliamo. Così l'antropologo ha potuto notare, attenzione, che lo scopo del gioco non è la vittoria di una squadra sull'altra. Questo stile si è trasferito a una sorta di calcio, poi hanno conosciuto altri sport, non competitivo. Cioè diventa più importante il gesto, il movimento, anzi addirittura per rendere il gioco più interessante l'avversario più in difficoltà viene avvantaggiato perché sennò dicono che gusto c'è, che motivo c'è, non c'è mica una competizione, non dico paritaria, perché quello che è protagonista non è un senso di vittoria, quello che è protagonista è un senso di gioco, è una filosofia completamente diversa ma molto affascinante. Il sondaggio in questione di Philippe Descola. Lo sport è un gioco? Punto di domanda. Raffaello Cortina è la casa editrice che, insomma, come ben sapete, in ambito di saggistica è veramente molto prestigiosa. Però è particolare questa idea di vedere una non competizione unicamente in nome del gioco, e quindi perché il gioco possa portarsi avanti il più possibile, beh, si cerca di portare al pari l'atleta, il giocatore, l'avversario, che non è più avversario, ma chi sta giocando con te, che è un po' in difficoltà. È una visione, se vogliamo, oltre il decubertiniano, ma qui non è più una realtà di sport. E qui ricordo una frase bellissima che disse un mio ex compagno di squadra. The stars would fall from the sky if I should lose you. Peccato per la sua testa, perché Willy a giocare a pallacanestro mica male. La risposta fu questa: beh, William giocava a pallacanestro. E chi ha portato giustamente questa condivisibile critica a proposito della mia continuità ha dato ragione. Beh, certo, lui giocava a pallacanestro. Ripeti con calma e fai analisi di quello che stai dicendo. Lui giocava a pallacanestro. Bene, terminati i magazine di oggi, l'appuntamento è lunedì prossimo. A proposito di sport, domani è il Mood Groove, ma ancora precedente a tutto ciò nella giornata odierna è il Caffè Paglia, che troveremo dalle 10.30 alle 12.30. Pubblicità, poi è di Edipeo Enciclopedico, liberi dentro, Caffè Paglia, domani Mood Groove. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio, una buona fine maggio, una buona settimana e un buon lunedì. Ciao a tutte e a tutti dal vostro William Piana. Ciao, a domani.